Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore per questa calda domenica di agosto. Parliamo di fuga dei cervelli al contrario, o meglio di un'iniziativa della Fondazione Con il Sud per trattenere, anzi incentivare, la presenza dei cervelli nel martoriato sud di questo paese. Per farlo, come dire, ricorre a mezzi molto concreti e assolutamente convincenti. 3,5 milioni, poco più di 3,5 milioni di euro che sono a disposizione dei progetti per valorizzare questi giovani talenti e indurli a rimanere a sud del paese per impegnare. Questo bando dello sviluppo del capitale umano ad alta qualificazione si chiama così, scade il 28 ottobre, quindi c'è ancora tempo per proporsi e per proporre i propri progetti. Promossa da Lega Ambiente e da Kyoto Club, arriva il Corriere a Impatto Zero. Massimiliano Pontillo è presidente di ECCO. Buongiorno Massimiliano Pontillo. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Ecco, non poteva mancare certamente nel grande barnum dell'impatto zero che ormai ci accompagna tutti i giorni, anche giustamente il Corriere a Impatto Zero, cioè sono pony, portano pacchi, buste, così? Sì, allora ECCO innanzitutto è l'acronimo di Ecological Courier, è la prima esperienza in termini assoluti in Italia di Pony Express Corriere cittadino completamente ecologico, partito a Roma e provincia lo scorso 18 ottobre nel 2010. Sì, l'esperienza del pony rispetto agli altri è che viaggia sostanzialmente su veicoli elettrici, scooter e macchine. I mezzi viaggiano 8 ore al giorno, vengono ricoverati in garage durante la notte, dove vengono anche poi ricaricati e pronti per la partenza la mattina successiva. Ecco, c'è una, come dire, sostenibilità anche nella relazione con i collaboratori di ECCO, se non abbiamo capito male. Beh, questo sì, sicuramente è un segnale importante anche in questo senso, sul fronte della responsabilità sociale. In effetti tutti gli autisti sono formati sia con corsi di guida virtuosi, vengono da noi assicurati, sono forniti di dotazioni di sicurezza secondo gli standard più elevati e ovviamente hanno un regolare rapporto di lavoro. Ecco, questo non è, può sembrare un aspetto marginale, nel senso che scontato, invece non è così probabilmente. La città dove questo servizio funziona è Roma, ci sono delle prospettive ovviamente di allargare questo raggio d'azione? Sì, Roma è soltanto l'inizio di questa avventura. In effetti abbiamo in programma lo sbarco a Milano nei prossimi mesi, ed è la seconda città oltre a Roma che gestiremo direttamente. Il progetto si amplierà con un sistema di franchising a partire dal 2012 nelle città più importanti d'Italia, Torino, Firenze, Bologna eccetera. Questo consentirà appunto di rispondere in moltissime città italiane al bisogno che c'è anche di un'aria più respirabile, anche quando si consegnano delle buste o dei pacchi. È così, è importante, ci uniremo per vivere le nostre città a impatto zero tutti, ma chissà fra quanto. Intanto iniziative come ECCO sono benvenute. Alla prossima, Presidente Pontillo. Chiudiamo con un social network per il no profit. Sapete quanto può funzionare per raccogliere fondi, per, come dire, accentuare e aggregare più soggetti con l'obiettivo di raggiungere la missione dell'associazione? Può essere molto utile, può essere addirittura fondamentale. Quello che cercano di spiegare nel libro, in un libro dedicato a social network per il no profit, Cristina Berta e Roberto Marmo, che hanno proprio analizzato l'uso e le opportunità che si possono raggiungere utilizzando i social network. Pubblicato dalla casa editrice online Give Me a Chance, può essere acquistato come libro ma anche come ebook, è vero e proprio manuale. Questo è tutto per oggi, l'indirizzo vi ricordo ferrybot@radio24.it per le vostre segnalazioni, in regia c'è Fabio Cantadori, in redazione Anita Panizza, alla prossima.